Chissà come faranno gli alti comandi militari e politici della NATO a giustificare la loro evidente volontà di ignorare la disponibilità alla trattativa segnalata venerdì da Belgrado. Probabilmente non ci proveranno neanche, la ignoreranno e basta. Del resto, adesso che i video nemici sono stati ufficialmente etichettati come criminali di guerra, è abbastanza ovvio che con loro trattare non si può far altro che continuare i raid, cercando di centrare possibilmente qualche obiettivo succoso di quelli che bloccano qualsiasi diplomazia e preparare l'invasione di terra. È di ieri la notizia per cui le forze armate degli Stati Uniti hanno ordinato una ditta texana alla bellezza di 9.000 Purple Hearts, i cuori di porpora, cioè le decorazioni al merito destinate ai caduti e ai protagonisti di gesti eroici in combattimento. Visto che, secondo le ultime indiscrezioni, il contingente a terra degli Stati Uniti non dovrebbe superare le 7.000 unità, non si può fare a meno di ammirare lo spirito egualitario che anima anche da questo punto di vista la grande democrazia nordamericana. È strana però, eh? È strana questa incriminazione di Milosevic e dei suoi collaboratori pronunciata da un organismo formalmente indipendente come la Corte Penale Internazionale dell'AIA, ma fortemente voluta dalla NATO e dal governo americano in particolare. Non perché sia inconsueto che chi è in guerra attribuisca al nemico il ruolo del criminale o peggio, ma perché questa volta si è ricorso a una pronuncia formale fondata su un certo numero di convenzioni internazionali. E se una cosa finora aveva caratterizzato il comportamento della NATO era stato proprio la più completa indifferenza a quanto le convenzioni internazionali in caso di guerra prescrivono, e questa guerra è stata caratterizzata fin dall'inizio da una singolare dicotomia tra l'asserita moralità dei fini, perché si è parlato di guerra giusta, di guerra umanitaria, di lotta del bene contro il male, e il ministro statunitense della difesa William Cohen, che Dio lo perdoni, ha persino dichiarato che gli alleati combattono per consolidare la civiltà del prossimo millennio, mica paglia. Vi dicevo, tra moralità dei fini e assoluto disprezzo per la legalità internazionale e nelle pratiche, è una guerra che nessuno si è preoccupato di dichiarare, o per chi di guerra preferisca non parlare, è un'azione di polizia internazionale su cui non si è mai pronunciato alcun organo che a ciò fosse legittimato. Molti paesi coinvolti, il nostro in testa, vi partecipano in contraddizione con le loro stesse leggi. L'Italia viola l'articolo 11 della sua Costituzione, gli Stati Uniti le norme che vietano un intervento in guerra senza un voto del Congresso, la Germania le disposizioni sull'uso delle forze armate contenute nella Grundgesetz e via dicendo. E la NATO, naturalmente, non si perita di adottare tecniche e strumenti che apposite convenzioni mettono al bando, come i bombardamenti su obiettivi civili non giustificati da esigenze militari o l'uso delle bombe a frammentazione. Ammetterete che, quali che siano le colpe di Milosevic e dei suoi, una pretesa di legalità riferita a una parte sola è perlomeno singolare. E afferma in sostanza la convinzione di chi ritiene che le proprie azioni, per un motivo o per l'altro, siano talmente giustificate in partenza da essere ineccepibili anche dal punto di vista formale, e la pretesa, in altre parole, di incarnare l'unica legalità possibile, di sequestrare a proprio vantaggio la legalità, e questo a sua volta non è altro che l'espressione di una volontà di dominio, della convinzione di poter comandare secondo le proprie regole, giudicando gli altri, ma senza permettere che nessuno giudichi te, perché le norme, si sa, valgono solamente per gli altri, che è un imbarbarimento della nozione stessa di diritto e una conferma del fatto che tra diritto e guerra, che se ne dica, non c'è proprio niente in comune. E a proposito di imbarbarimento, permettetemi di citare senza commenti un annuncio pubblicitario apparso sulle pagine milanesi di Repubblica del 28 maggio ultimo scorso. Non aspettate l'ultimo minuto, si raccomanda, perché con la guerra la Sardegna è l'isola più richiesta d'Europa. Segue una serie di offerte alberghiere e balneari. Da sempre tra le rovine si aggirano gli sciacalli.